le leggi e ribelli alla corona, e convinto Teuzzone. Convinto dirlo? E punirlo di morte, che sia pubblica e grave al par del fallo. Giusta sentenza! Ecco il fatal decreto. Ora il disponi. E a piedi, imprimi il nome eccelso. Oro e non moro, imprimerò io. E per Teuzzone saranno i caratteri miei note di sangue. Alanna, non vedo stem. Scrivi, sì, mio riposo ed è grandezza mia che gli sen mora. Ma già scrivesti? Non è tempo ancora. Spiego. Attendi forse. Pria che il dì cada, il foglio segnerò. Chi siede in trono, questa verbale autorità sui regni. Troppo! Già intendesti, sensibile.